Chisio. Ma lei non sta uscendo, va chi? Attento Gianni, ci sei? Attento, signor Marino. Avanti, va chi? Come ascolti, pulito? Pulito, ma sei basso comunque, Bacchi, basso. E sono un portatilino. E adesso mi è avvicinato di più. Adesso la modulazione è aumentata, però è un po'. Ti ascolto bene come modulazione, adesso l'ho aumentato un pochino. Già va bene, dai, con quale sei? Con il portatile, con il bambino? No, con l'antenna esterna. Antenna esterna. Con il baufen. Va bene, dai, io poco anzi ti stavo chiamando, ho sbagliato, me ne sono accorto. Ti ho chiamato su una frequenza. Ho sbagliato. Ok, allora in campagna sei andato, sì? È chiaro, in campagna un po'. Sono andato un po' in campagna stasera. E tanto a casa so fai, non fai nulla. No, non fai nulla, in campagna ti svaghi. Campagna ti svaghi, se ne voglia di fare, se non ne voglia di bosi, no? E poi se già lo sai, c'è sempre da fare, quello te lo capisco. Oh, io ho l'erba alta, adesso domani finisco le domeniche, così adesso iniziamo a comprare un po' di benzina e iniziamo a tagliare piano piano. Iniziamo da un capo, a manco tagliata. E così, dai, avanti. Domani tu lavori, domani è l'ultima domenica, così è. Esatto, l'ultima domenica, poi tocca a giugno, a luglio, là, più o meno, là. Se non cambiano le cose, boh, e vabbè. Ma chi non è cambia la vita, è interessante lavorare, a me un giorno come gli altri. No, ho visto stamattina quel tipo che qua, quel ragazzo, ogni mattina mi saluta quando mi vede passare. Andiamo, bobo. Andiamo, bobo, buonasera anche a lei. Sono quei stagionali, Bacchi, sono quei stagionali che lavorano al ghero e l'hanno fatto salire qua per recupero foglie e così via, capito? Tutti i stagionali ci avevamo qua, era sinceramente la vecchia giunta, il boss non ne ha voluto neanche uno, l'ha mandato tutti via, finito il mese che hanno fatto, tutti a casa, e ne hanno fatto salire quelli al ghero, ma già lavorano comunque, dai. Bene, c'è stata la bussata, buonasera, buon avanti. Ciao Marino, ciao Bacchisio, buonasera a voi. Andiamo Luca, bobo. Catta, bobo, andiamo, avanti Bacchi, bobo. Bobo, aspetta che cambio radio, che sta andando la batteria. Già siamo qui, vabbè Luca, come andiamo? Come andiamo, come giovani. Come giovani, meglio così. Ti stavo dicendo, fammi la foto di quell'apparecchio che stavi dando. Poi hanno messo la portante, non so chi è. Guarda, non stai uscendo, eh? Hanno messo la portante. Qualcuno non sta uscendo. Hai già preso, fammi la foto di quell'apparecchio che stavi dando insieme alla cifra, ma lo mandi su WhatsApp, dai. Eia. E se ti nasce lo becco, quello là glielo dico, anzi glielo faccio anche vedere. Bene, avanti che voleva entrare. Quindi, nel corso tu cosa stai usando? Il fratello del mio? Sì, il tuo gemello, Bacchi, ma io lo tengo col caricabatteria inserito, capito? Dunque per quello non se ne scende. Ogni tanto lo faccio scaricare a zero, poi lo ricarico, capito? Però è inserito, fermo, io neanche lo tocco. Ma che ha preso, ma chi? Ehi, ma sai cosa è successo? Sono i radioamatori, entrano questa domenica a fondo scala. Ma tu cambia il coso, cambia, non capisci? Sollevali, cambia il coso di frequenza. Come si chiama? La sposti, così non le senti, no? Dove sei Marino? Sopra o sotto tu? Io sono sotto adesso, sopra, le sposti la frequenza, capito? Le sposti, se no ti danno problemi, non senti, ti disturbano, capito? Adesso rimandano più in là, perché c'è questo domenico, entra sparato. Sono forti, meglio così. Bene, Meda, Luca, avanti. 5 minuti, arrivo subito. Non sei uscito stasera, Luca? Si vedrà dopo, dai. Però non stai uscendo, eh? Maria. Avanti, va qui. Mi ha massacrato di 4 canali. Tutto qua non ti massacro? Sono stato di 4 canali e entravano lo stesso. La zona del coso del Lombardia erano. Sono forti, dai. Forti. Cos'è la finale? 7-8... 785 erano sul 145 787. Ho capito, andiamo, dove andiamo? Luca, Ettore, che fine ha fatto? Non si è sentito ancora? Ettore, senza il motore, avanti. Ettore, presto, ma chi? È presto, ma ci sarà qualche altro in ascolto se non c'è lui. Grazie a lei, ma non entro perché siamo antipatici. Non gli piace la modulazione. Forse sono in AM. Sono 27. Sono 27? No, non c'è nessuno, mi sembra. No, non c'è nessuno, papà, non c'è nessuno. Allora, tutto a dormire. Tutto a dormire, bisogna che mia Trinzi venga lassù nuovamente. Perché... le radio non stanno scaldando per nulla, sono mesi ferme. Lo so. Oh, io quanto ne ho voglia, per carità, non arrivava a bannuta, eh. Allora, hai scopato parecchio oggi. Ghiaccio nera, sì. Ghiaccio nera, i soliti randaggi, c'è la greffa dei spagnoli che fanno casotto la notte, le ragazze che si fanno una cacca, le vedi in giro, per carità. Casinato stanotte peggio. Stanotte c'è la peggio stanotte. Sì, ma oggi vuol dire che stanno più pulite. Hai fatto di meno, tu hai lavorato di meno oggi. Perché non già pulite. Sì, aspetta, stanotte è caduto il fanno, perché qua. Stanno sono i locali aperti e si fanno una cacca, ma chi? Non escono fuori, butti di mano, butto in terra, fate di tutto, vai. E cosa li vuoi fare tu? Non ho capito. Cosa li vuoi fare a queste persone qua? Ecco, se no io passo dritto e cambio strada. Perché se la retta l'hanno preso. Oh, vedo nulla. Vedo nulla, vedo evitare, capito? Vedo evitare. Per essere più tranquilli, per essere più tranquilli. Insomma, chiudere l'occhio. Meglio evitare, perché tanto dopo lo sai, la ragione passa a torto, ho capito? Io prendo, cambio via, ciccia, poi già ripasso, quando se ne vanno via. Vedi evitare, sennò guai. E cosa vuoi? E cosa vuoi fare? Vediamo questo torre se è rientrato con questo cane mezzo voi. E Altora, ci sei? Ora è morto in Libia, ma chi? Cane in giro, c'ha, a passeggio. Sono subito alle 7. Ma dove è rientrato io da un bel? E poi quando esce col cane non si porta il portale di portarsi, si mette l'auricolare, cammina, tanto lui è tranquillo, è il cane che tira lui, capito? L'ho visto a mezzogiorno, alle mezzogiorno, le 3 meno 20. Io stavo ritornando dalla Brick, dalla cosa, dalla Lido, sono andato a comprare le crocchette ai cani. E mi ha tagliato la strada, neanche accorto se ne è. Mi sono capo che va. Ma io. Per caso non hai visto la pistola termica, no, la vita, no, non li hanno messa ancora. Stavo rientrando a casa perché lei è entrata nella via di casa, da casa sua però. Ma deve essere tutta allovionata, va via Vammi o via Zonno. Che magari era stanca via Vammi sicuramente. Ah, mi sembra che lo sia ubriacato stamattina. E l'unica scusa del cane esce fuori e si imbriagheggia. La sempre la pulita e boscià con la cannuccia, l'ho preso. Con la cannuccia, noi dice che fa il giro largo fino ad arrivare al Val di Sanna. Al Val di Sanna penso faccia la sosta. E lui ci fa la sosta a Sanna, quel ciclo c'è vicino all'Acri, anziani. L'altro bar c'è Gabellini, tutti i cicli si fanno. Andate via, che la soglia è embriaco. E ma per un cane li porta in strada. È come i cani che hanno i inobbedienti, no? C'hanno la strada da fare e ti portano lì. E così col cane di quello lì. lui lo lascia e lo porta a casa. Perché ne approfitta, lui approfitta perché ormai c'è il cane che lo porta, capito? Allora, quello è ammaestrato, è un cane ammaestrato quello lì. Dice quando sei cotto già ti porto io a casa, tutti i dini. E così ne approfitta lui. Così ne approfitta questo cane lecca che c'ha, Iulia. Benemeda, Luca! Ah, Luca, sicuramente, come uscito? Che andiamo, bobo. Non venire da Ivano. Non venire da Ivano. Francesco, sto presto, sono andato per il mio nipote nel giorno, su, e doveva giocare a Nuvolo. Alla 1:30 l'ho accompagnato il Sergio 31, è passato l'amico e è sceso a Nuvolo a giocare. Ancora non ho terminato. Poi mio genero da Oristano va a prenderlo, capito? Ehi, caspita, oggi è già una bella giornata, magari c'è anche caldo a Nuvolo. Ecco che è sceso con tua madre, ma con tua moglie. No, mia moglie sta tenendo il bambino, è da bue pizzicata, senza volti, Giulia, per carità. Il bambino, mia figlia, stava lavorando e sto alle 5:30, diciamo. No, con un amico di quella di squadra, capito? Poi mio genero usciva tardi e dove sta? Da Macomer, non adesso, da Macomer andava nuovo. Si trovava giù, no? Ah, ecco, andavo a prenderlo lui, va bene. E se non solo sto bambino, si trova anche male. Roba che era con gli amici di squadra e magari c'ha più confidenza col dirigente, roba varia. No, per quello già sceso con la parte di un amico di squadra, capito? Già lo conosciamo, già sono persone in gamba, per quello non c'è problema. Già rimane insieme agli altri ragazzi. Per cui non c'è problema. Vediamo se è entrato Luca, cosa fa? Gio Maria, attenzione Gio Maria, tutta. Avanti, va chi? Io. No, sono tutti a dormire. E che squadra gioca il bambino lì? Bacchi, una domanda su due giovani, scusa, io la mia ignoranza, non lo so. Della Seroce, portiere e portiere. Giovanissimi, portiere. Andava bene. Allora, domenica ha giocato Ozzieri, abbiamo vinto tutto Ozzieri. E oggi è a Nuvolo, poi domenica non lo so. Ma no, domani penso che non giochi domani. Se gioca oggi non gioca domani. Di settimana, un po' darsi. È chiaro, no? Oggi si giocano, domani sono a riposo. Non li possono far giocare un giorno presso l'altro. Magari mercoledì o giovedì si fanno la partitella. Dunque è un portiere tuo nipote? Portiere? Già hanno giocato, sì. Quando era fuori in continente ha giocato tutta la settimana giocando, sabato e domenica, capito? No, tutta la settimana, c'era una settimana in continente e ha giocato tutta la settimana, hanno giocato. Ma sono diverse squadre, capito? Sono un torneo, loro hanno fatto un torneo. Esatto, c'erano diversi... C'era Firenze, Roma e così via, capito? Sono tutti così dei tornei di gruppo. Oia, andiamo bene, andiamo. Dopo, andiamo bene. Luca, ci sei? E questo è un canale dei morti. Scusate. Perché io volevo entrare avanti? Ma io che c'è posto per tutti, mi pare la cosa può chiamare oggi. Tutti a lumache. Come stai? Chi c'era, Bacchi? Ma lì, tutte le lumache sono andati oggi. Ma è entrato qualcuno, no? Qui, una portante, no, non parla. E anche poc'anzi c'è una portante, però non è entrato. Se a voi dentro, noi siamo qua. Tore! Mi hanno andato a prendere la signora Tore, non lo so. Bene, Meda, se andate in ufficio, se andate da Bacchi, no? Come? Ho capito, Marino. No, ma sto uscendo, prova. Adesso stai uscendo. Ma proprio metto che stavo uscendo. Ma lo fa, non stai uscendo? Boh, non so, c'era una portante, io pensavo che eri tu. No, non c'era una portante, infatti. Ma l'hanno detto, vuol dire tu poc'anzi, si è spostato, si è andato a mangiarti mezza focaccia e si è rientrato, dai. No, sono in divanato con la 25. Come mai? Qua non c'è la TV anche. Ah, pensavo che dovevo uscire. Non riesce a venire sulla pista, no? No, ma niente a ieri. Non sta bene, la 25 adesso vuole rimanere a casa. E a casa avevamo l'ospedale, su mia moglie lo stesso. Voglia, c'è anche se sta a voce. Anche se sta a voce, mia figlia è così così. Io ma ormai sono così così lo stesso. Ma già passa. Avanti, Bacchi. Ehi, ehi, Luca è rientrato. Bene, bene. No, vienitene qua, Marì. Che con la febbre, che con il dolore di ola, capito? Boh, adesso nel portone ci mettiamo cuti a cacca. Va, è periodo adesso, Bacchi, è periodo. Gennaio, febbraio, marzo, è periodo, non hai capito? Che non ti visto che è da guai. Purtroppo non prende medicina, deve fare soccorso. Non è che prende medicina adesso e subito ti passa, no? Deve fare soccorso e basta. Bene, bene, avanti, signor Luca. Certo, ogni cosa deve fare il soccorso. Ma la gente fissata, voglio mia cognata, mi seccata più di 10 giorni, non abbia nulla, non abbia niente. È andata al dottore, giomai se la magna. Gli ha dato antibiotico, se non passa l'antibiotico non andava a farsi la monica, il corso e via. Lei era convinta che passa così. E non è nulla, è un fumetto a fare. 10 giorni che fa da chi? Sì, ci vuole antibiotico, ci vuole. Bisogna curare le cose, se no guai yoga. E cosa vuoi farci? Al prossimo anno non se ne ricordiamo di quest'anno, sta tranquillo. Sì, se vi siamo, pazienza. Anzi, ormai si vive la giornata, ma chi? La giornata si vive, basta, avanti Luca. Un attimo, 5 minuti di stand by. Anche 10. Hai capito, ma chi? Si vive la giornata, nulla da fare, va? Luca è andato in stand-by 10 minuti e viene subito. E così è. Si vive proprio la giornata. Male, male, ma come quest'anno, l'anno scorso non me l'ha preso questo malanni, questi dolori, questa roba varia. Quest'anno tutta la ciacchica. Bacchi, c'è anche l'età, qui sono tre cose fatte anche da giovane, capito? Io lo stesso. Lo sai, quando a casa non c'era, con il moto piccolo nella roccia, a petto nulla, sudando e con la corrente a fianco, ohia, ci hanno ubbidiato un po' di corrente. E invece adesso me la corro ogni tanto, dolore alla schiena, ai reni, non mi posso avvicinare, sembra un vecchio di 30 anni, non me ne posso. Ma parlate male di me che sono all'ascolto, buonasera. Buonasera Gianni, parliamo male di te. Marì, c'è questo signore che non fa niente dalla mattina alla sera. Davvero è già. No, che sto scorrendo a casa, dai. Gianni, ti avete spostato, sono d'ascolto. Va bene, dai, pulisci la casa, già siamo qua, ascolta le nostre chiacchiere. E non divulgare quello che diciamo, però, perché se parliamo male di te, guai. Avanti, Marì. Io già faccio un a pezzi, già, bobo, andiamo. Avanti, da chi? E così è. Oggi c'è un arrivo bello pulito, proprio di lusso. Beh, sto scendo, sì. Di lusso. Oggi non sono neanche passato in ufficio. Non so che c'era, che non c'era, boh. Devo passarci, poi ti dirò che non avevo proprio voglia di stare lì a ascoltare del cavoluto che fai in ufficio. Fanno troppo baccano in ufficio, fanno. Bisogna mettere un po' di ordine. Sì, Bacchi, lo so, purtroppo. Fa una cosa all'altra. Se vai nell'altro ufficio, peggio, Là rimbomba ancora il doppio. Ah, nell'altro ufficio? Quello dell'ufficio degli immigrati. Là è peggio. Cavo cotta, cavo cruda. Io via, per carità. Ma non, il locale è piccolo, e parlano tutti, e per caso sono pochissimo. Sì, va bene, non c'è un compagno di giunta. Bobo, andava e anda, e tanto sta riprendendo il giro. Già sta lavorando, sta lavoricchiando, purtroppo così, non c'è nulla a fare così. Chi devono avere i buoni, non c'è un buoni. Vai, vuoi una cosa, devi andare alla porta a cercarlo. Voi devi andare no, non c'è religione, o se va a giocare a boccette, oppure se vai fuori a fumare. Ma sia uno all'altro, sia lui sia la ragazza. Sì, sì, maschio, sì, la femmina, sono tutti due volte sì, di villo. E per quello, un anno fuori dal carcere. Non si è fatto un anno, già si è 4-5 mesi. Ah, io sono fuori indietro, fuori dal tempo. 4-5 mesi c'ero. Forse quello che c'era prima era molto più gentile. Io lo so perché non l'ho preso, l'altro lo prendeva, la mamma del pomeriggio, ancora non l'ha pigliato. Lei a chi vuoi incassare, tu, un piso là. Lei non vuoi incassare di là. Non gli ho chiesto nulla neanche la testa, io voglio vedere a che punto arriva, guarda. Sto aspettando, non ti hanno mandato nulla a te. No, ma cosa, alle 2 chiude, mi sembra, alle 2:30. Io quando passo per andare in campagna, alle 2 qualcosa, è già chiuso. E a chi mi ha fatto nulla, non preso la battia, a quell'ora chiude se non va a mangiare. Non è che uno deve prendere e incassare, c'è gente, aspetta. Oh, dobbiamo io, tutti fuori, tutti a mangiare. E invece prima 24 su 24. E incassava. Della testa non ti ha domandato nulla, no? No, lui mi ha detto, parlando l'altro giorno, che dice che era di sotto, un bel, dice che lo stavo mettendo in mutande. Ma io poco ci credo, Bacchì, poco ci credo, dai. Devo pagare l'affitto, devo pagare l'acqua, devo pagare la luce, non rimane nuda. Dai, ti già stai incassando, dai, tu già lo sai, basta che si può finire a prendermi. Ma adesso già sta lavorando, perché adesso sta incassando. Perché si vede, il movimento c'è, non a pieno ritmo, ma c'è il movimento. Il mezzogiorno, la mattina, non so se ci sia gente. Poco a poco già c'è gente lo stesso, perché io mi sono avvicinato un giorno che era presto e bene, tutti i cadere pieni, mira. Si può usare che vanno pure da sopra. E allora, dai. Il cliente fisso è il cugino. Il cliente fisso. Il cugino chi? Parla di buco. Ah, oia. Un altro soccone, meglio nuda. Pagami un caffè. A chi te lo devo? Pagami un caffè, dove ti hai imbusciata? Sì, ma una volta li ho pagati, due volte. No, quando me lo domandi, vai a galera. L'altra mattina sono entrato alle 7:30, no, anche le 8, no, le 8 qualcosa, no. C'è Salvatore e ci manda a prendere il caffè e dice a me, a te ho mandato sta leva. Si sono appassionato, già andato in là, dunque, da capo vuoi. Prima da un cosa all'altro, si può mangiare guai, se appoggia qualcosa da mangiare, si mangia tutto, si fa cena e pranzo. Se si mette a mangiare, si mangia anche il piatto, si mangia. Hai visto, fa da uno all'altro, adesso in uno c'è poco e nulla. Così è, c'è tutto che nulla. Vediamo, Tore, non ha voglia oggi, non ha voglia. Ieri quest'ora stesso, quest'ora stesso, stavo già abbaiando a quest'ora. Andiamo bene, andiamo. Dopo. Andiamo così, avanti. Certo. Beh, buonasera, mi è ben alzato. Vabbè, non fa vedi. Bobo, non riprende nessuno. Gianni, ci sei? Sto lavando per terra la ruta. Soldo, Sei uscito dai carogani, Gianni, magari. Bobo, andiamo e andiamo. Ma chi? Certo. Ma lei mi ascolti, Marino? Adesso sei seduto a fianco a me. Che tu stai arrivando bene, dai. Secondo me lo sposto non arrivi, ci arrivi tutto disturbato. Poi c'è così, arrivi bene. Andà bene, dai. Andiamo bene, andiamo. Ma avanti, siamo Bacchi. Ehi, Luca, stai arrivando bene, va benissimo, pulito. Ehi, adesso arrivo, Fra poco lo sentiamo abbaiare. Già, hai visto quella vecchia canale 5, quella in nero, in blu? Siamo Bacchi. No, disattento, adesso lo voglio vedere. Non sto guardando, ma non la vedo. Vediamola un po'. Che cosa che pelo è? Primo pelo o secondo pelo? Un po' di peli. Marino, tu non la vedi perché non c'è televisione. E senza pelo, ma chi? Ma ce l'hai? Pesatelo. Oh, andiamo e andiamo. Ormai si passano da Zaerba, non hai capito, vero Luca? No, boba chi? Andiamo e andiamo. Mostro l'uomo. Un cadavere in più. E così è. Andiamo. E beh, i funghi, Marie, com'erano? Mandateci li a. Non ho capito, ho già detto, ma chi, scusa, i fogli. Detto, se i funghi te li ha mandati. No, non ho capito bene, mi stavano sparato. Aspetta, mi abbasso il coso, il microfono. Quale fogli, da chi? Ho detto, se quella persona lì ti ha mandato i funghi, a me mi ha mandato i funghi. Ah, adesso non lo stavo riconoscendo, eh. Ogni epoca è Maduro. Ma sono tanti nati insieme. Sono tanti nati insieme i funghi, ho capito. Dall'orto botanico li ho fatti. Allora, e tu come stanno andando, Bacchì? I miei adesso li ho sotterrati, perché ne ho raccolto un chiletto in due volte. I primi erano favolosi, belli grandi. I secondi erano più piccoli e c'erano un bel guasti, perché erano asciutti. Adesso li ho sotterrati, stavo leggendo un depliant, mettendoli sopra delle terrisce rimangono fiumi, difatti ho visto già 3 o 4 giorni, stanno rispuntando. E poi per un bel barattolo le metti dentro olio e peperoncino e fai piccante, fai prima. Io i funghi li mangio così, per olio e peperoncino. Non mi piace mangiare così i cocci, la mia moglie compareggia ma io non li mangio. Solo l'olio mi viene al bordo della nausea. Le mangio solo sott'olio, capito? Che ci mettiamo un bel po' di peperoncino e posso mangiare, se no nulla. Oppure arrosto, e boh. Sempre col peperoncino, eh? Sì, arrosto è la morte sua, messo un pochino di olio piccante, è la morte sua, aglio, prezzemolo e io andammo ad Anansi. Oh, Marino! Sempre piccanti, se no nulla da fare. Bello, Luca! Oh, Marino, quel baracchino è un mobico, MB40. Compreso di staffa, cava di alimentazione, c'è anche il microfono amplificato, in più ha 200 canali. Mandami la foto sul coso, poi io la mando a quello che mi ha chiesto, che lo vedo forse lo vedo una settimana. E mi metti la cifra sotto, e la cifra cerca di tracciare, che è un amico intimo. Poi con calma ti dico chi è. Hai capretto? Ehi, andava, era. Ehi, una cinquantina di euro. Ehi, vabbè, tu metti il coso, poi già ci sentiamo. Così in settimana, se passa in zona, io lo dico e poi ti farò sapere, dai. Ti farò sapere. E a te i funghi come ti piacciono, Luca? Cosa? I funghi come ti piacciono? A me piace l'antunna fatta arrosto. Buona rita, gli apprezzo il peperoncino, oh yeah, no dai. E a me piace arrosto, vedi, anche a me arrosto, o arrosto pure sott'olio, sempre piccante, non va a fare integrare cosa che non ne mangio, solo l'odore mi viene il mal di testa, figurati. Avanti da chi? Ehi, no, arrosto, Marino, qui grandi, arrosto, no, adesso vediamo un po' come escono questi qua. Se escono grandi o se escono piccoli. Guardando così il gambetto che sta uscendo è abbastanza robusto, dunque devo fare una bella capoccia. Speriamo. E anche sperando che non ci vada la lumaca a mangiarceli. Figurati, guarda, mi ha dato un cestino, un cugnolo, quando è? L'anno scorso, 2 anni fa, il mio vicino in campagna, che risulta il fratello di Bastianino, no? Lo sai, Fratello Bastianino fa il giardiniere, studiato in cose di giardini, nel campo dei fiori e così via, no? E il mio confinante si è formato un pezzo del terreno dietro, l'ha formato tipo dove crescono i funghi, poco parola, là, nel suo terreno, capito? Ma un cugnolo mi ha dato, ma veniva da morire, veniva. Ma cos'era, frattaioli oppure cartoncello? Frattaioli ero. Ho capito. Frattaioli. Comunque, brianche, impanati e fritti, oh yeah. Siamo in soia, no? Buoni sono. Io mi ricordo tantissimi anni fa, mi ha chiamato questo signore, per dare una mano a questo muratore a fare il manovale, no? Mangiavamo lì, se non il vino, lo mischiava, questo vino c'era la cantinetta sua, ma ne aveva vino, veniva a ufandura, e lo mischiava, e più mangiavamo lì, faceva la pasta asciutta, e più questo scantinato, siccome la casa era la parte alta era del figlio, no? I piani di sopra, e sotto c'era la cantina lui, c'era il biliardo anche, e faceva la roba rosso, ma la rita era. Chi c'ha lo spazio, Luca? Chi c'ha lo spazio fa quelle altro. Hai capito, ma che questo ci ha fatto il terreno proprio dove nascono i funghi, in poche parole, l'ha fatto proprio la sua roba, ripeto, è studiato questo, Padre Bassani non è studiato, appunto, fa giardini, fa tutto, purtroppo da poco i macchinari, avanti da qui. Ehi, allora, bravo, noi ho ordinato da ingegnere il seme del cartoncello, ancora non l'ho seminato, perché le istruzioni che dice bisogna avere paglia di grano vergine, che non sia umido, che non sia ammuffita, non sia per questo, poi bisogna tagliare a pezzettini da 2 cm questa paglia qua, tagliata, messa a bagno per un paio di giorni e poi strizzarla e metterla in una vaschetta, mischiare sì, del fungo, poi metterne in una busta di quelle di alimenti, riempirle di gomma piuma e legarle e lasciarle così per 40 giorni che nascono i funghi. Poi un travaglio e non finì più. È un travaglio, purtroppo. Ma se vedete questo pezzo di terreno, un pezzettino dietro la casa l'ha fatto, no? Poi ha giù detto, sembrava un bosco, proprio dove crescono i funghi, proprio un bosco sembrava, capito? Con quel solito con quel terreno, c'era poco le carteggiane, roba sopra, via, boh, ne ha messo poco di roba. Bene, vediamo se è arrivato signor Tore. Tore, la stesso, vero? Sì, quello lì c'ho io, ho raccolto di quelle lì, quelle della palla. L'ho presa il mese scorso da Diaz, 5,50 euro, e gli ho fatto già un chilo e qualcosa. Ah, ecco, bisogna raffiarlo ogni giorno, no? Andiamo con le spruzze per i vetri, quelle a fare lì, una boccetta di quelli, però acqua pulita. Ogni giorno bisogna umidire la faccia. Ascolta, ma al buio va messo, così o mi sbaglio? L'ho messo? Ho detto va messo al buio, o mi sbaglio? Ma io ce l'ho dentro la serra adesso, l'ho messa, ma lì. Perché il fungo dice che nasce al buio, infatti io la sera li guardo, la mattina vado a vedere e sono sempre più grandi. Però mi ha detto, vuole un punto al buio e poi la mattina o la notte prende dei nappi con uno spruzzino, ci va l'acqua proprio asciutto, proprio leggera leggera, capito? Ogni giorno, giusto? Sì, sempre spruzzata con quella cosa, con lo spray piccolino che si mette l'acqua dentro, ci la umidi e la sera li fa lo stesso lavoro, capito? Ma al buio le istruzioni dicono non tenerlo né al sole né dove sono correnti d'aria, capito? Ho capito, e a me mi metto al buio appunto, io punto al buio, sì, sto suonando ma appena mi metto nella casetta dell'Algida, devi darci il buio. A te andavano bene lì in cantina, nel sotterraneo, c'è sempre umidità, c'è sempre fresco. Lo so, ma mi fa casino, adesso vediamo, questo anno viaggiamo, mi metto dentro il cavello che c'è l'altra parte, le faccio lo spazio e ce la butto dentro. Anche nel cavello dovrebbe stare ancora meglio, perché c'è buio e umidità, non c'è vento, non c'è niente. No, la Diaz, infatti era intenzionata di prendere un'altra balla. Ah, prendo un'altra balla, e loro dicono appunto, ma adesso quest'anno, non è voglia quest'anno la giovane vannuta, per carità, sono mezzo casinato. Ah, prossimo anno faccio un piccolo spazio, tanto non buttare poco di roba e la compro e ce la metto. Ne compro una decina di balle e poi mi metto a vendere funghi, bene si va. Di lusso, poi il settore che te le chiude e compra, e fai il cambio a pesci. E pesce in logo. C'è il mercato, se te li vuoi comprare. Aspetta, anche su, e pensi il lungo. Ma sei adesso, va, ma chi? C'è cosa di parlare male a Tore. Poi io, andiamo bene, andiamo. Buonasera, ben entrato. Sì, buonasera signor Bacchisio. Hai capito, come ti parla alle spalle? Buonasera Tore, cosa di parlare male di te? Sempre ascoltando dietro le quinte, male io. Avanti tu. Tu passavi anche. Sì, Tore mi, e beh, Tore. Anche tu ci sei, non sei uscito. Menti, ma cos'è? L'influenza ci dimendi. No, c'è la signora che non sta bene, era a casa. Visto là, te l'ho detto io. Bisogna rinforzarsi. Non lo so, boh. Andiamo. Chi ti va via da andare? Ma come era già appena acceso? E che cosa la gentigia? A pezzi te lo vedo, a pezzi. E meno male c'ha le spalle grandi, eh? La verità. Manco male che va gentesio. Per carità, non vi porto più, no. Ma tu l'hai sentito quando non c'eri, quello che abbiamo detto. Oh, ya, l'hanno detto poco dei cose. Mi posso credere? Specialmente Marino. Io sono piccolo e bravo, e lo so che ti stai portando il cane da lecca in giro. Sì, chissà tu sei tu, il tuo cane da lecca. Ha detto invece che il cacchettino ti lecchia a Darido. Oh, già. Già lo sai, Tore, ti voglio bene, già lo sai. Scusa, quando esci a portare il cane a sera, perché non ti porti portatile, ti metti a ricolare, scusa, o no? Non fa vedo con nessuno. Quando esci non c'è nessuno, vabbè. Vabbè, fai finta di parlare, ti va a mettere sola, no? Posso prima lasciarla in casa che è un peso. Come stamattina sono andato a prendere mio nipote, sono andato a scuola e ci avevo portato, oh, non sta accelerando nessuno, e da poi si è sotto di nascosto, ma cosa, manco un'ai, non vira. Niente, dai, te l'ho detto io, è meglio lasciarla in gallo e posteggiato. Ah, io ci ho lasciato in casa. Vabbè, io c'ho quello piccolino, ci ho buttato in macchina da cena quando conosco da lavoro, ma quando la sera non venisci nuove, boh, avanti, ma chi? Invece quando la scendo io non venisci nuovo a te, sì. Allora mi sono portofato di accendendolo, la stendi, l'ha posizionato un sedile, arrivi al garage e non venisci nessuno, e tu vai lì e poi tiro la busciacca, capito hai? E così è la vita. Signor Bacchi, bisogna fare così, bisogna farlo nell'imbusciacca, rebu. E allora, bisogna fare così, dopo l'imbusciacca, lasciarla a riposo. Ma ecco, quando svolti le frecce non ne hai tu? Quando lo smonto cosa? La macchina, frecce non ne hai, no? Frecce? Così hai detto? E le frecce della macchina non funzionano, o il dito non funziona. Io penso che nella macchina mia funziona tutta, che io pongo le frecce. Sicuro? E quando sei rientrato a mezzogiorno, le 2:30, 3:20 erano. Mi sei passato da danza senza frecce, hai svoltato. Io alle 3:30? No, te lo dice i baglieni, che io ero dormito io alle 3:30. Da 3:20, non 3:30. 2:30 da giù, non di 3:30. No, non sono uscito. Sono uscito che erano le 11. Poi a mezzogiorno ho portato a lui a piedi e poi non sono più uscito. Sono uscito che erano le 5:20. Allora c'è un'altra macchina precisa, la tua? Più di una venne precisa la mia, più di una venne. No, nel palazzo tuo, nella zona tua, c'è un'altra allora. Sicuramente sarà... No, aspetta. C'hai il portabagagli sopra, c'ha. No, non ci fa attenzione, lo stesso colore della tua. Sì, c'hai le due strisce di portabagagli sopra al tettuccio. Che barichiglia. Ma era davanti a me, tutta la bocca, tocca rovere e svolta a destra. E se mi soccupo e metterci di nuovo a qualcosa che casa tua. Hai tu il settore? No, non ero io. Sicuramente era quello del terzo piano che sale dalla madre. La macchina non è tua, va? Sì, quasi briziosa, solo che la gioia è delle cose, è il primo tipo. La mia è il secondo tipo. Ho capretto. Avanti, Luca. La tua è il terzo tipo? Cosa? La tua è il terzo tipo di macchina? Ho capito, no. Anche il tuo è il terzo modello? Perché quello che ha il terzo trattore è il primo tipo. Ah, il secondo tipo, il tuo è il primo, il tuo è il terzo, no? Il terzo modello, sì. La Fiesta, il terzo modello di La Fiesta. La Fiesta, del 2007, quando non è manco mia, da 25. Ma la vera è un cascaglie della Nissan. Hai compreso? Ma tu vedi, allora dobbiamo occupare un cascaio, ma con un cascaio tu potremmo occupare. Io faccio una banda, sono andato a casa, stavo sì. Ehi, è così, no, non te l'avevo raccontato, ma lì dell'assicurazione. Ma no, stavo dicendo, l'hai pagato, mi hai detto stavolta. Ma quello là l'ha pagato, e a me mi hanno tolto 60 euro. E ti hanno passato così? Oh, 60 euro in meno. Signor Macchi, tu hai fatto male che avrei fatto, chi so se puoi ridere se puoi. Cata, bisogna fare così, bisogna fare, ogni tanto bisogna dire che mi hanno educata. Anche se non avrà toccata nessuno, Macchi. No, no, già qui lo segno, una macchina verde. Solo che credo ne ha cancellato quando ero agito. No, questo va bene, la macchina verde che non è la mia. No, è la tua, me l'ha data nei pizzo. E cosa vuoi discutere? Hai visto bene al garage di vostro la macchina mia? C'era la polvere attaccata ancora sul paraurti e sul cofano, nuda. Se io toccavo col paraurti alla macchina sua, qualche cosa ci rimaneva del bianco mio. Anche la polvere, aveva schiacciato la polvere, era intatta. E in tutti i modi, hai detto, no, faccio ragione io, ho ragione, bigliatina, vabbè. E gli ho fatto assicurazione. 300 euro di danni c'erano. Ma chi? Non gliene dovevi fare, anche io c'era Biglieni Barugu e a Biglieni. Se si voleva attaccare si attaccava a Ruverro, all'angolo dello barazzo, che dovevi dire. Io a me la stessa cosa di un altro ragazzo qua vicino. Ma fate se tu mi hai toccato una macchina con la retromarcia, io. Mi ha fatto di te, sì tu, la macchina mia non va via, ma con graffio non va via. Fa una cosa, se sei imbriaco, ti posso permettere allora di dire tiro. Però no, non so che mi ti ha giudicata. Sì, sì, Tony Vito, e allora hai visto male tu, che ti l'ha detto. Ma non ne ho fatto, bisogna puntigliare. Ma no, con certa gente non puoi puntigliare, con certa gente no. Arrivano lì, in garage, ti poni un poco di benzina, poni il fuoco e ti goccia più di chi su che devi dare. Ehi, ma chi? Lo lasciavi perdere, gli dicevi, io non ti l'ho giudicata. Bene, in garage ti posso vedere che io non l'ho giudicata. E la macchina mia non è vecchia. Quindi se ti andavi che è vecchia, a te andavi. Se no, io non ne avevo fatto. Ehi, dottore, non hai capito? Che è una persona un po' particolare, quello con la puntiglia ti fa fare rispetto, capito? Hai capito quanto ti sei e ti fai il casino al garage. Sì, aveva fatto il casino al garage che non ne aveva fatto, ne aveva troncato anche io. Sì, vabbè, ma lui non ti fa nulla, manda altra gente, no, tu non sai chi è, io già so chi è, sì. Manda altra gente, come lo conosciamo bene che è fatto così. Ma poi non si va bene, l'avrà detto. Avanti da qui. Non è come dicettore, se è stato così facile e è stato già fatto, non è facile torno, devi essere in giro l'ambiente, devi conoscere l'ambiente com'è, dunque conoscendolo no, non puoi sgarrare, perché si dice sei tu, devi abbassare i padri e pigliarti le responsabilità. Cata, cosa gioco? Assassino gioco per pigliarmi le responsabilità. È lui che se le deve prendere responsabilità di capire che la gente non è a coso suo, ne compreso, che anche di troncanire anche il suo burro. No, è come ti dici tu, devi conoscere l'ambiente, Tore, non è così. E gli ho tu mani, spiegaglielo. Spiego in verticale, là. Lasciamo perdere. Te lo spiego con calma, tu in verticale. Avanti, Luca. Esatto, top. Lo spiego bene quando ci vediamo, dai, non è inutile discutere così. Non conosci la persona, io già conosco bene. Non ti vai di nulla, manda quello che hai già fatto, capito? Cazzo di vuol dire che mandiamo noi burro Cosa vuoi ti dica? Da a ciò che andemmo noi, a ciò che do andemmo, capito? Così la vita. E così, Tore, bisogna prendere il tempo come viene. Sì, se non ti subunto me. Hai compreso? Se non ti subunto... E sto qui io. E se non vuoi ti vado di là. Capito? È diversa la situazione. Come dici tu. È dura la faccenda. Io so appuntato... E tutto quanto e tu ci sei cascato, ecco cosa è. Quello ha puntato il dito e buh. E vabbè, lasciamo perdere che è meglio, va. Ma guarda, 300 euro che ha pagato non mi fate né caso né freddo, no, non me ne frega proprio niente. Io passo con la testa alta, e devo passare con il gabba basciato. A chi sa che era in tuscio, ecco cosa è. Con il gabba basciato a chi sappia che era in tuscio. E' compreso. Ladro è più che altro. Ah boh, io non vedo in casa sua. Una persona disonesta, non è onesta, una persona disonesta. È un amico, Tore. Meglio nuda. Infatti, meglio nuda, se è un amico, meglio nuda. Meglio la salla, meglio che andrò bene, meglio gira a carriera, alla salla pigli. E vabbè. Ripeto, non divento né ricco né povero. Sì, come ti ha chiesto di Fiumanzano? Mi ha fatto finta di tornare in Daredo, l'ha toccato la macchina e ha detto che non era Edo. E uno l'ha fatto, ma si vede tu Drento, come ti mai Edo? Si vede tu Drento? Ah, non sono costato io, no. E se ne è negato. Quindi sono un bel po' di faccia della riduccia. Se sono un mucchio. Chi se l'ha fatto una foto, chi sa se l'ha fatto una fotografia là di tu? Come te non sei tu? E chi so care? Oh, non so se è tu, ya. Se l'ha fatto vedere la fotografia, dice, ah no, no, già so io. Lui si è confessato. E come te le cose, c'era un paio di mesi fa. All'angolo della verdura lì, del verduraio. Arrivi da che c'ha punto, non stai parata. E sono andato da me. Mi sono comparato, ha baito, ha già graffiato, ha continuato a fare un altro graffio. Ma io non gli ho fatto niente, non ho fatto la roba continentale. Arrivederci. Un padrono, l'ho preso. Un padrono. E intanto vedono gli altri graffi, e della rinforzati, però è da faccia trovare l'alino. Certo, andiamo, boh. Non c'è più religione, no, ma chi? Male andiamo, do, male andiamo. Sì, andiamo male. Mado. Andiamo proprio male. Dopo. Non c'è più religione, ecco cosa è. Fatto piccolino, no. Come da chi? Un carro armato mi serve. Ma ti serve da chi? Non hai capito? Ma ti serve? Un carro armato. A posto della macchina, uso il carro armato. Minimo, magari. Perché così è più duro, non mi fanno niente, capito? Così quando passa anche Tore, non lo temo. Sì, proprio a me devi dirmi. Sentimi a me. Ecco un grande barroccio che vai a va. Prima era un barroccio minorito, adesso è un barroccio manno. Ma era più lunga quell'altra che c'avevo che questa, mi. Più lunga è quella. Dopo mi pare più corta. Ehi, Maria, adesso va via roba roccio. Adesso via da Dombarella, più manna. Ma più grande è questa, Tosso? Ma più grande, più alta questa qua. No, più alta è, però più grande era quella là, era. Più lunga era quella là. Questa c'ha due camere, cucina, bagno, cantina, scantinato e garage, così. Là c'aveva una camera, cucina e bagno, o mi sbaglio? Può essere puro. No, questa è, si può dire che è più spaziosa, però quella là era più lunga, cioè il cofano che è più spazioso questo. Beh, questa qua è più signorina, diciamo, là. Questa è una signora, è un soggiornino, diciamo, è già una macchinetta bella alta, spaziosa. Qui va bene andare in montagna, sciare, no? Sarà stato 4x4, sì. Ma insomma è 2, soltanto trazione davanti e basta. Va bene, va bene, avanti, avanti Luca. Luca non risponde, avanti Bacchi. E quanto è lunga la trovo la macchina? È più di 4 metri? No, 3 metri e 98. Faccio chi darà 4 metri e 5. È come la mia, 4 metri e 10. La Clio è 4 metri e 10. Invece quella là era 4 metri e 5 era. In garage ci sta giusta? Rimane 20 cm solo, rimane davanti. Perché se c'è una macchina più lunga non ci sta più, devo tagliare un pezzo di musichiri. Vabbè, anda per un te, sì, certo. Già va bene, solo che 130 cavalli. 130 cavalli? E altri non ce ne sono? 130! Ma ci ho pagato 250 euro di bullo. Ci sono 130 cavalli e due asini, giusto? No, asini non ce ne sono, sono tutti gabbati. Ah, ci ho visto l'asino anche, da gabbati. Avanti, Bacchi. È così. E dunque, quant'è quello lì? Un 1600 e to? 1600, 99 kilowatt. Io ne ho pagato 100... Da 150 mi ha tornato, mi sembra, 2 euro e qualcosa. Sì. E in quell'altro invece pagavo 180, sì, pagavo. Perché era 76 cavalli. E pagavo 180, sì, ne pagavo. Invece chi sa 250? Il confronto se pagano nulla, confronto all'altro, dai, o no, o mi sbaglio? Oh, il catta, sono 50 più 30, 80 euro in più. Quasi 70 euro in più sono, dai. Pagavi 180, più lucina sono quasi 80 euro. Dai, 70 euro. Vabbè. Però c'è una bella signorina, una bella signorina in macchina, c'è, scusa. Quando un cacchi rubedi, cammina, Non ti lascia andare due, cammina, se non stai attento. Lo so pure, ma è una macchina elegante questa. Andiamo e andiamo dove? Avanti, Bacchi. Se non stai attento, se si fuggi pure questa macchina, non sta ruguro. Devi stare attento, Tore. Se non si fuggi... c'è Emilio Minori, a to, piccola ma sincera. L'hai tirata, a to, sì. Quasi a 180 ciò che arrivi tu. 180, sono andato anch'io a 180, la macchina mia. Quando faccio 190 si muovo il velo e sento la ruota di scorta che balla. Boh, strano, cosa può essere tu? No, questa qua cammina davvero, non sto dicendo balle. Sono arrivato quasi a 180, sono arrivato, nella strada andando a Olbia. Bella silenziosa, no? La tiene la strada, sì. Cosa anche pesante, no? La tiene, sì. Cioè, tiene la strada, ma... ma quando arrivi anche sul gozzo devi diminuire a chi tira. Tira e succia. Vabbè, succia va bene, ma però c'è tanto che tenga la strada, avanti da chi? No, 180 li faccio anch'io, li facevo anch'io con la mia, adesso non li fa più, ormai è vecchia. Perché tornando da Cagliari con mio genero, un giorno abbiamo fatto 180, ma l'abbiamo fatto per un paio di chilometri, dopo i cavalli obbedi, che era Burendi, era. Ma stava volando, stava? No, mi sembrava volando, mi sembrava che non toccava terra. Perché leggera, capito, leggera la macchina, non è come quella di Torre, che ci risulta pesante, dunque la strada è bene. E come la tiro io, molte volte sono una cazzata, me la sento troppo leggera, capito? Se non tiro lo stesso qua, il 10 non ammazzi, ci avanti do. Io l'ho tirata per un po' di chilometri, poi ho cominciato a abbassare, ho cominciato, quella lì è anche 6 marce, che devi tirarla un bel po', hai capito? Per un coso. Sono come te la dici, Zazza, subito a 150, Zazza. Così è. Sì, allora, sono come schiacci, e dove ti trovi? Zazza subito a 150, Zazza. Pompa, carina foto la macchina, bene nera. Vediamo, c'è Luca, Luca? Luca, sta andando, Gia Maria? Gia Maria non c'è davanti da qui. Io mi sbaglio, devo essere impegnato. No, 6 marce, anche la mia c'ha 6 marce, Tole. Anche quella di Marino ha 6 marce. No, la mia ne ha 7, Bacchi. No, 6 marce, scommettiamo noi quello che vuoi, la mia macchina c'ha 6 marce, la tua ne ha 6 lo stesso. Se vuoi scommettere, il caffè per domani è pronto. Ma la mia ne ha 7, Bacchi, 7 io ho contatto. Come io faccio la settima si muove la ruota di scorta. Ah, ecco. Tore, non ci credi che ho 7 marce, 6 marce? Sì, è che non vi grido. Che no. La Clio ha 6 marce. Così è. Boh, andiamo dove andiamo. Ah, 6 marce più la retromarcia, allora. Cos'è, Marì? Così è. La mia c'ha 6 marce più la retromarcia, e sono 7. Dove mi hai fregato? Come? Se conto anch'io ne ho 7, perché scendendo a campagna metto la prima e la seconda solo. Anzi, non la prima è un'altra marcia che non so come si chiama. Scendendo a campagna. Io quando scendo a sasso della campagna mi devo da San Giorgio e anche l'altro giorno. Tutto in folle scendo, tutto in folle. Quella è una marcia buona. Beh, dottor. Mi basta che non poni la marcia a funebre. No, ma avviso gli sconti, io meglio non da. andiamo, dai. Bobo, aspetta un attimino, riprendo fra un secondo. Dai, è tutto, un casotto Non c'è nessuno anche nella 27, Tutto vado silenzioso. C'è solo un fischio adesso. Sul 23 o sul 10? Sul 10? No, sul 23. E c'è proprio. Nessuno. Sentito? Ma ne ruddo io visto. Quello lì è mio. No, ma nessuno, vabbè. Non c'è nessuno, C'è nessuno, no, tutto tace, la signora siete buono, detto. Cos'è? Ore. Sì, ho detto cosa è. Cosa vuol dire cosa è? Mia mammi. Siete entrato avanti, da chi? Io. E così è. E così la vita. Stiamo guardando adesso la stufa, Marì. Con il pellet di Michele, salivi a 21,5. Dopo di 4-5 ore. Questa in poche ore è salita già a 23. Ah, di calore. E quanto va a cenere? Cenere? E a quanto è la cenere? Devi guardare sempre con le calore più la cenere, guardare. Cenere se ne è poca, se ne è qua. No, quello di cosa? Dell'Abricomen. Ti dirò che funziona benissimo. Questo usiamo con l'abricolo, quello del plus, come devo si chiama, sacco trasparente con le scritte rosse. C'ha 4 di cenere, 0,4% di cenere, e va benissimo, io sto usando quello e per il momento va bene. Non è compreso il garraggio, compreso. No, non è scritta in rosso, c'è la scritta in bianco, in trasparente, solo c'ha la inquadratura in rosso. I caratteri sono trasparenti, però c'è la scrittura in rosso. No, se aspetti 2 minuti ti mando la foto del sacco. Riprendi che faccio la foto. Così mi dici se hai preso questo o no. 5,39. Io ho preso quello da 5,35. Ed è buono lo stesso. A 1 ed è buono lo stesso. 1 questa qui, a 1. E siamo già a 23,5 di calorie, l'accesa mi sembra di 5. Di cenere c'ha 3,99 questo c'ha. 4 solo, no? 4%. E anche quello di Cosomi, di della Conade, che è buono. Ti dirò, lo prendevo alla Conade, lo prendevo lì. Adesso sono andato a vendere a Bricome, ti dirò, ottimo. Sì, quello di Bricome è buono lo stesso. Io ne ho preso un paio di sacchi, ne ho preso per provare. Io l'altra volta ho preso il coso Nordica, quello misto a abete e poi non so che cosa sia. Abete, frassi, non mi sembra che era, una cosa del genere, era diverso. Scaldavasi però cenere, niente che era carbone, e sporcava tutto il vetro. Anche a me questo, il vetro no, non me l'ha sporcato, io l'ho pulito ed è pulito, appena appena si vede, però rimane pulito. Sono tornato, Tornato. Avanti Lu, riprendi tu allora, sei tornato. E invece qua, quella di Marina, la stufa, il vetro glielo fa nero. Allora vuol dire che non è buono. Io ho preso quello di Bricome, provo a prendere e vedi cosa ti fa. Vabbè, comunque scaldare scalda in una maniera allucinante, ma scalda, non ci possiamo manco vicino. No, c'è caldo a casa abbastanza, però fa il vetro nero. Tu dove lo prendi, Mario? Al Conad lo sta prendendo. Quello fa il vetro nero, infatti quelli dalla Conade, ma ho detto molta gente che fa il vetro nero. E le calorie è forte, però non è abete, è mischiato. Ascolta, chi è che, vabbè, bisogna chiamare il tecnico, fa una tarantula S sul display, una scritta Seru. Questo che abbiamo preso dalla Brico in blu, è svizzero, ed è al 100% abete, e tiro che... In 3 ore che è accesa è andata 3,5 di calorie, 23,5 è andata. Qua 22, ma si sta benissimo, va. Anche bene, anche troppo, guarda, va bene. Come ho detto prima, nel display esce una scritta Seru. Questo è svizzero, c'è scritto Swiss, e poi tu mi chiedi, c'è scritto... Vediamo un po'. Warmer, la scritta è, il sacchetto è trasparente, è scritta in bianco, con le bande rosse. Anche io ti ho mandato la foto, controlla, guarda se è quello lì, 5,39. Aspetta che devo guardare la foto. Controlla, questo qua va bene, per la stufa mia va bene, dopo ognuno, ogni stufa ha le sue cose, questo va benissimo. Quella di coso che ho questa che ho preso da Bricome è buonissimo, il vetro me l'ha lasciato pulito, me l'ha lasciato, me l'ha sporcato quasi nulla, comunque è buonissimo. Quello della Conada non mi vi lasciai io. Oh, Bacchiglia, a me zazza a 60 zinco zazza di caloria. E tu se lo devi guardare, è sempre accendere, devi controllare il valore del calore e l'accendere, guardare. Non bisogna guardare il prezzo e nulla. Io guardo quello lì, guarda, se no magari mi fa casino la stufa. Questa lì prima lo prendevo da De Martis, cioè De Martis l'ho aumentato, dunque non ha più pedato. Poi ha cambiato anche il modello di pellet. E mi va bene quello che sto prendendo adesso, avanti Bacchiso, visto la Bacchiso, sta controllando, avanti Luca. Sì, già, questa è la terza volta che io gli volevo chiedere, nel display esce Marino, la scritta Seru, capito, è Marino, va uscendo sto. Sì, che sta uscendo Luca. Boh, non lo so cosa vuol dire, bisogna chiamare il tecnico lì per far controllare e fargli cambiare la scritta. Non so neanche cosa vuol dire. Marino. Hai controllato, Bacchi? Ehi, è uguale, lo stesso. Io ho preso quello lì, anche mia figlia va benissimo, guarda. Non ho avuto nessun problema. E come accendere quasi nulla. Cenere zero. E io la pulisco di 2 giorni, 3 giorni, ma è pulito, non è nulla. Non c'è nulla, vuoi zero, porto zero. No, ti ho detto, è pulitissimo. E poi ti dirò, in 3 ore siamo 23,5. quell'altro là di Michele, oppure l'altro che prende fuori dalla, dall'altro appresso, quello lì, qui dal negozietto. Non salivo a 22 al massimo, ma verso le 11, le 11 e mezza salivo a 22 e mezzo. Esatto, no, questo è abete puro, plus, non c'è resina, non c'è nulla, capito? E c'è dello 4%, va bene. Poi dipende se va stufa stufa. Per esempio c'è il mio vicino, è buono il garaggio, c'è caldo, cosa caldo? Io sono sempre a freddo, non scalda nulla, per lui c'è caldo, che la casa, il salone dove ce l'ha è piccolino, capito? Per lui c'è caldo. Il salone c'ho io sopra, che sulla casa è grande, e io lascio 2 ore accesa, poi stacco perché sennò pure il caldo, figurati. Sale veloce come temperatura, avanti e tocca. Ci sta bene, ti dirò, caldo. Ci sta bene, benissimo, non bene, benissimo. Con quell'altro là erano sempre in 2 golfi, adesso con un golfino leggero stai bene. Capito? Avanti to. Se io non raccolgo nulla molte volte, figurati. È esagerato, sempre, sempre esagerato, Catta, non lo so qui, Catta. Fate buona a piombo, Mari. Così è to. Andiamo e andiamo. Signor Bacchi, digli qualcosa, se no mi tocca... E adesso lo mettiamo a lenza, lo mettiamo, perché fra poco lo metto a lenza io, mi ando a mangiare, e lei ci può cacca. Anzi, domani, ci vediamo domani, Mari, o quando esce al lavoro, ce la prendiamo, passiamo in ufficio, perché devo andare a timbrare, perché sono... 2 o 3 giorni non mi presento, dunque devo il cartellino, devo timbrare. Ah, il cartellino, lo so, lo so. Sto così, e io lascio 2 ore e poi rimango anche in magliettina e sta bene a casa. Su è tutto bello come intatto, e sta bene. Luca, non risponde, avanti, do. Andiamo, dai, vabbè. E vabbè che tanto non sta facendo neanche freddo, quindi un po' di calore già va bene. Oggi si sta bene, oggi è una bella giornata, stava bene, si sta. E così. Vediamo Gianni, si è finito di ramassare. Gianni! Ma tanto non paga niente, non prendi va. Gianni, tono, sta ancora ramassando, non rispondi. E vuol dire che farà Drugani, ha farato, quando io... Andiamo a mele, va a vedere a fare Drugani. Ma chi è Luca? Oh, Gianni, dice che c'era Gianni anche. Io ho sentito, magari poc'anzi, poc'anzi. E magari tra io o il cane, sicuramente. Bene, davanti da chi Dio? Così la vita. E così la vita, oggi a me, domani a Matessi. Gaiette, da chi? Gaiette. No, io già ci credo, tu è che non vi credi, che hanno dei rudizini. Lo sai, io ti voglio bene, tuo vicino, io sono un ragazzo quasi per bene, già lo sai. Ti raggiudito e tu non vi credi. Oh, io qui a te. Andiamo, bobo. Sì, si vuoi andare, io non vi trattengo. Domani tu andiamo a funghi, andiamo. Ma non dovevi mettere il gommone a muso, non è borsa ancora. E ancora non è tempo, tempo vero ancora. Tempo vero, però non so di oggi, io vado alla fredda. Marie, se non ti puni il gommone devono, non so scendere manco le bescherecce, che fate un conto tu, che so più male del gommone. Ma se esci, se le bescherecce dovevano fermi, se tu prendi il pesce, prendi. Quello che sta arrivando da fuori è il pesce. Ecco, pesce che non pesce è arrivando da fuori. Io lo so, sì, già lo so, vabbè, febbraio già è bello, là, a polpi, andiamo i polpi a 5 euro. Non venne in giro, vabbè che non venne, io non so scendere neanche le pescherecce di Stentino, non so scendere, neanche le barchette, nulla. Ah, Mariveo vecchi. Ehi, è un po' che per Mariveo. E basta bloccarlo un po', boh, non lo so io. Hai visto che Guido che passa sempre, non si è fatto più vedere che non venne nulla. Ma che l'ha detto? Se c'era anche ieri mattina c'era, e l'ho visto a Giovanni, aveva poco il pesce in macchina, non aveva la zuppa, ho detto non ha più la casa fogata, ma era poi un polso, un polpettino lato e tutta via. Tutta roba di vura, tutta roba di vura, non di stintino. Ah, tutta roba di vura, dove abita la prototosa. Sicuramente roba di fuori, sicuramente. Stintino lo prende a stintino, ma lì. Aveva un bel po' che la via di salire, aveva la macchina piena, e ne ha venduto un bel... Ci ero mancato lo penne, poi forse lo indietro. Se si muove Tommy, mi voleva venire un elefante, figurati. E male è fatto che non l'hai bigliato. Sì, perché magnammi. È un bel puro. Un bel puro. Oh, voglia. Il curati è do. Dopo andiamo a andiamo, un elefante. Ma ancora il collo dell'elefante. Chiedo, lui pensa anche l'elefante, capito? No, ma Giovanni ha giuito oggi, quando è che... Oggi ha giuito, non via nuda, era male in busciacca. Allora, la caduta, ma rimane, andiamo bene, una via, rimane. Era di fronte al verduraio, un camani. Ieri, prima di beccare a te, ero all'Acri, e mi stava parlando un amico dell'Acri e è entrato Eddo, aveva poco il bescio, e ha fatto il giro, era sempre incartando stava. E mi devo così. La fede mi voleva caricare un poco di pescio, mi ha avanzato, non so cosa farne, ma mi ha detto il giro, dice, un affare, non ne posso più affare con te, basta. Oh, quando prendo una volta, le volte poi basta, cosa mi fai? Vero, to. Cosa vuoi cinghiare, Tore, voi? Ah, oh, ormai. Se ne ha giurampato un pezzo, se ne ha giurampato. Quindi, cosa, ormai, no, non voglio più nulla. Adormiti siete? No, forse sei tu che non ci senti. Ah, già sento, io sto solo. Avevamo chiamato per mezz'ora, avevamo chiamato nel riposo. Ah, perché stavo con la 25. Non ti sento. Luca, Marino non ti sente. E nemmeno io lo sento, Marino. No, non lo sento più. Marino è caggiuto. Marino ci sì. Io sì, ma non sento a Luca. Non sento a Luca. Luca a te ti sente però. Lo so, ma mi sente, ma io a lui non lo sento. Boh, andiamo e andiamo. Male se mandendo Marino, male. Bene ragazzi, io chiedo permesso di andare in QRT perché è arrivata l'ora. Ciao Marino, buona serata, saluta la signora e tutti i componenti della famiglia, buona cena, buon tutto. Ciao Tore, buona serata anche per te, saluta la signora e buona cena. Aiden con le patatine anche per Luca e anche agli amici che sono in ascolto. Marchisio vi saluta cordialmente, prendovi buona cena a tutti quanti e vai in QRT. Bye bye! Ah, ma che ben sentito, domani se coincide, dai, ciao tutti in casa. Avanti, Tom. Ciao Bacchi, ci sentiamo alle prossime, una domani se tutto coincide, ok. Andiamo bene, andiamo, dai. Meglio così, riprendi Mari. Aspetta, mandiamo a Luca, dai. Luca, avanti, per saluto Bacchisio. Ciao Bacchi, salutoni, dai. Buona cena e buon tutta domani, ciao. Avanti, Marino, riprendi. Luca, l'hai fatto, l'hai ricevuto, sì. L'hai fatto? Luca, ti devi sostare, se non ti capisco, Ti devi spostare, ti vedi come poc'anzi, non ti sento bene. Se ti ho ascoltato, ma c'hai il moto QRM. E cosa hai detto, Oca? C'è un bel QRM appresso. Boh, non lo so cosa ha detto. E c'ha il moto QRM, ciao Luca o Tore. Luca, ti sta dicendo che c'è il moto QRM. Boh, io sono nel soggiorno. Adesso se sto bene. Ti ho chiesto se hai ricevuto le foto. È forte, aspetta che guardo. Adesso mandami la tua se ce l'hai, dai. Avanti, signor Tore. Sì, andiamo bene, andiamo, dai. Sciamendi, Mari. Ci sentiamo domani, ci sentiamo. Ciao Marino, ciao Luca. Statemi bene tutti e due, buona cena e tutto quanto. Ok, a domani, ci sentiamo. Ok, ciao, ho ben sentito, sono tu in casa, dai. Saluto la signora, a domani se coincide. Ciao ciao. Ciao Tore. Sì, Mari già visto, dai. Vabbè, anche qua è pronto. Vado anch'io a mangiare, Mari. A domani se coincide, dai. Ciao anche a te, buona cena e buon tutto. Ciao Mari. che Luca tutto ricambiato, tutto ricambiato. Ciao, domani. Ascolta, ricordo di mandare quella foto di quell'apparecchio così. Così lo faccio vedere, dai. Prima possibile, sto soffrendo da qualche altra parte, ok? Ciao. E domani ti mando le foto, tranquillo. Ciao. Ok, ciao.